questo mondo di follie, in questa notte di pietà, in caserma Nassiria, porta ancora la bontà nei miei occhi, nella voce mia. Nel metro di London Town o nelle notti di Kabul, nella scuola di Beslan o nelle torri di New York, tu c'eri, tu c'eri con noi. Tu dottore in amore, ascoltaci, cambia il cuore degli uomini e poi fa che batta insieme nel mondo con il tuo, con il tuo. Tu dottore in amore, ascoltaci, porta pace in un attimo e poi toccaci, toccaci nell'anima per sempre, oh per sempre, oh per sempre. Cambia il cuore degli uomini e poi toccaci, toccaci nell'anima per sempre, oh per sempre, per sempre, per sempre, per sempre.